Antonio è scomparso. Chiedete. Sì, Angelo, ci sei. Invece Antonio si è perso, è scomparso. Senti, comunque aspetta Angelo, il tempo che sei, un poco il tempo che sei andato via. Aspetta che mo io lo vedo ad Antonio, aspetta un attimo, cerchiamo di... Ragazzi, ci siamo o no? No, ci siamo, Antonio non lo vedo. Ma perché non ci vediamo? Non riesco a capire. No, allora in video, Angelo, in video non riusciamo a vederci perché praticamente in audio ci riusciamo a sentire tutti quanti, ma in video non ho capito se praticamente Skype... Ma io ce l'ho disattivato. Ma io invece... No, ho... non mi diceva, capivi, nella versione precedente di Skype, in questa la chat di gruppo non c'è il video, almeno così mi arrivava il messaggio di ecco, perché praticamente questo me lo fece anche la volta scorsa, cioè singolarmente riuscivo comunque a vedere, quando poi dopo aggiungevo le persone e praticamente invece non... mi andava soltanto in audio, hai capito Fabio? Capito. Comunque, dici Fabio, dicici. Fabio, dici tu un po' questi altri 20 minuti che ci intratteniamo. A Angelo che non c'è stato, insomma, un pochettino ci facciamo una sintesi un poco di quello che ha detto Teresa, vai. Vai. Allora, Teresa ci ha invitato un po' tutti i presenti del tavolo a sostenerlo per un'iniziativa per quel bambino, non so se ti ricordi che lo disse anche al funerale di Giulio. Sì, il bambino era... Alla fine hanno fatto un'iniziativa come scuola, realizzando un video, ha detto, molto forte, come sentimenti e come tema da trattato, è dedicato penso a questo bambino, e che non vorranno fare le scuole di pianura per il giorno questo, sarebbe il giorno nazionale per la disabilità mondiale, non so come ha detto questa cosa. E niente, poi ha detto ci sta un'altra mamma di un altro bambino disabile che a breve realizzeranno tra le mamme un comitato. Poi gli escono due facce ora. Qual è la quella di Fabio? Io vedo la quella di Fabio e poi vedi il tuo cavallo. No, io vedo la tua e quella di Antonio. No, perché Antonio ci ha pure detto, tanto esci che io ti riaggiungo un'altra volta. Vabbè, non fa niente, comunque andiamo al sodo per... Certo. Vabbè, questa seconda iniziativa che però deve essere ancora strutturata, è solo un'idea di questa mamma, che diciamo che è un desiderio che ha di vedere suo figlio su un'altalena. Quindi ci sarebbe da... Che condizioni sta questo? È appesa su una sedia a rotelle, credo. Non è entrata troppo nei dettagli, Teresa, prima. Perché dipende, capito, dal livello, se ci vuole proprio quell'altalena. Ci vuole quell'altalena, quella là che ci riesce a vedere leggendare una volta, mi sembra il video. Ho capito. Pare sta stesso pure sulla pagina nostra della disabilità di Facebook, no. Diciamo una soluzione del genere dentro un parco. Diciamo, niente, è da studiare un pochino la cosa per vedere di sostenere comunque questa mamma e questo comitato di mamme che sta nascendo. Per farsi che poi questa catena, diciamo.